A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, Franco Pietrini in redazione, Matteo Comes in regia. Sarà che abbiamo un po' il dente avvelenato, sarà che ogni volta che andiamo a comprare un giornale ci salta la mosca al naso. Però fa piacere comunque che festeggiare da ieri il 2-0 sulla Germania. Palla sotto ancora Cassano, il sinistro Balotelli. Gol! Al 20° Balotelli, Mario Balotelli porta in vantaggio l'Italia. Incredibile come si è alzato Mario Balotelli, ma splendido l'assist con il sinistro di Antonio Cassano. Per Balotelli, è buona. È buonissimo Mario Balotelli, palla sul destro, incrocio dei pali, 2-0, guardate, sembra una statua, 2-0. Bene, bene, è andata perfetta, penso che abbiamo riuscito a vincere ancora una gara che forse non eravamo i più veloci, però ieri la qualifica è stata molto importante perché sorpassare diventava molto difficile oggi, e anche se loro erano un filino più veloci non erano capaci di andare avanti, quindi abbiamo tenuto la posizione, una vittoria importante anche con qualche ritiro di gente importante, Hamilton, Weber ottavo, quindi anche per il campionato bei punti in questo weekend. E tutto è andato bene dalla partenza, il punto perfetto per fare i pit stop, la chiamata dal box sul momento giusto e anche i pit stop che sono andati benissimo. E i sassi nelle scarpe ce li abbiamo un po' tutti. Leggo Daniele Dallera dalla prima pagina del Corriere della Sera, uno tra i molti a scrivere queste cose. In questo momento che ai noi dura da troppo tempo di crisi internazionale, la felicità dell'appassionato assume dimensioni maggiori e sfumature psicologiche importanti, tendenti alla rivincita. A Hockenheim, terra tedesca un po' sudaticcia, ben lavorata e donata all'agricoltura, immersa in un corollario di paesini ordinati ma per nulla attraenti, alle 9 di sera una birra e tutti a nanna. Lì vince la grande Fernando Alonso, uno spagnolo, quindi prosegue questo corsivo di Dallera all'interno. Il suo capolavoro lo dipinge al volante della macchina più famosa al mondo, la Ferrari, che è italiana. Quella macchina nasce dalle idee e dal contributo di ingegneri tecnici, tra i quali c'è un greco che parla perfetto italiano, Nicolas Tombazidis, è lui il capo dei progettisti. Vince una macchina italiana guidata da uno spagnolo, progettata da un greco, alla faccia di Angela Merkel. Mario Poltronieri, buonasera. Buongiorno. Ciao Carlo. Non so se anche tu vuoi unirti a questo populismo di bassa lega. Ma ti dirò, io purtroppo per formazione mentale sono più portato alla tecnica che non appunto agli aspetti di colore, tant'è vero che nella mia attività tu sai che a un certo punto avevo trovato Zerbiani, che era il mio personaggio che faceva colore, quindi io non, sì. non sono, io cerco sempre di arrivare alla base, a capire il perché di un risultato. E allora abbiamo detto per andare sul tecnico, Mario, abbiamo già detto altre volte in questa stagione che, per fare un parallelo calcistico, Alonso assomiglia alla Juventus, che è capace di incassare quando le cose non vanno bene, di raggranellare punti, a piazzare la botta quando è il momento. Simile anche, se mi permetti, il vuoto di potere alle spalle in questo momento della rossa con la Red Bull, che potrebbe essere il Milan e la McLaren, che so, l'Inter. Ma ti dirò, io francamente Alonso lo vedo non solo perché è spagnolo, già a livello almeno del Real Madrid, se non del Barcellona, sì. Perché indiscutibilmente la stagione che sta facendo, e non è una scoperta comunque, è da pilota eccezionale, perché è riuscito a vincere con una macchina che nelle preprove di campionato si era detto forse conviene pensare a quella dell'anno 21 perché questa non andrà mai. Sì. E ha vinto adesso, dove lo staff è riuscito a fare un progresso enorme e a riuscire a mettere la vettura a livello di competizione pressappoco pari alle altre. Si tratterà ancora di fare qualche gara, per esempio la prossima settimana Ventura, su un circuito piuttosto lento a sali scendi come quello di Budapest, è chiaro che bisogna vedere se la macchina ci si adatta. Poi non dimentichiamoci che quest'anno c'è il problema delle gomme, che pare che tutti non riescano, almeno nei vari tipi, a interpretare nel modo giusto, e per cui anche quello crea, diciamo così, quelle incertezze che in fin dei conti fanno parte della filosofia di Eccleston, perché Eccleston ha inventato il discorso dei rifornimenti, poi si è reso conto che era pericoloso, l'ha tolto, poi le questioni di cambi di gomme, e poi tutta una serie di accorgimenti per rendere spettacolare una formula che ormai, essendo giunta al limite, certo, poco ci manca, i chronometraggi venivano fatti in nanosecondi, ha bisogno di qualche cosa di aggiunto perché possa dare realmente spettacolo. Ieri abbiamo avuto un grande spettacolo perché avevamo tre campioni del mondo che guidavano benissimo con delle macchine più o meno equivalenti ed è stata una gara veramente molto interessante. Nel caso specifico dirò che io ho avuto l'impressione che ieri per la prima volta Vettel sia stato piuttosto nervoso, sì, perché già si era infastidito moltissimo quando al 36esimo giro Hamilton, che era indietro, era 18esimo, poi è diventato 17esimo passando, cioè cercando di recuperare il giro, l'ha superato in modo regolare, lui si è irritato molto. Poi c'era stata la mattina il reclamo poi cancellato a proposito dei motori che montano la Red Bull, che in questo caso avevano degli andamenti nella coppia del motore che non corrispondevano a quelli degli, sì, stessi motori in altri gran premi. Allora subito la federazione ha pensato: c'è qualche trucco, vediamo che cosa fare. Dopodiché di questo è stato rimandato, poi come se non bastasse fa il sorpasso a Button, che era perfettamente a posto in pista, sì, all'esterno con le quattro volte al di là della riga di delimitazione della pista e viene penalizzato. Quindi questo porta come risultato finale che Alonso è sicuramente il più forte di tutti e che Vettel, che è il suo avversario comunque più valido, si trova più avversari di quelli che pensasse di poter avere in questa stagione, come già lo stato nell'anno passato. Questo Mario, è il quadro. Ti volevo chiedere ancora una cosa che con questa gara che abbiamo analizzato non c'entra nulla in un istante. Sono giorni di Olimpiadi, l'altro giorno ho chiesto così en passant agli ascoltatori quali sport vorrebbero vedere alle Olimpiadi di quelli che non ci sono. Molti hanno scritto che vorrebbero vedere sport motoristici, auto e moto. A me sembra bizzarra come idea. Ma sai, il discorso degli sport motoristici, se noi partiamo dal presupposto che le Olimpiadi dovrebbero essere degli sport puri, dove non ci sono soldi che girano, è chiaro che l'automobilismo e il motociclismo non ci stanno. Sì. Si potrebbe cercare di fare una formula, ma è chiaro che purtroppo l'operazione che ha fatto Eccleston a suo tempo con Ferrari, e cioè di potenziare sempre di più la Formula 1, di fatto mortificando tutte le altre categorie, perché chiaramente uno spettatore è in genere, è proprio un ragionamento normale, quando tu hai una cosa che ti interessa è chiaro che metti in disparte le altre. Io mi ricordo un libro che recentemente, qualche anno fa, diceva: un uomo del 700 riceveva le informazioni per tutta la vita quante sono quelle che riceviamo noi in un solo giorno. Certo. Quindi è chiaro che uno fa una selezione automatica. Certo. Allora, a questo punto, se tu proponi una categoria modesta, diciamo economica, cioè che giustifichi lo spirito dell'Olimpiade, è chiaro che la gente non interessa assolutamente. Ma è chiaro, è chiaro. Vogliono vedere il massimo, è certo, vogliono vedere il massimo, perché le Olimpiadi sono il massimo dello sport possibile, quindi non avrebbe senso accontentarsi di qualcosa di meno. Ti ringrazio Mario, alla prossima. Un abbraccio, no, okay, grazie. C'è qualcuno che si impermalosisce, non coglie lo spirito satirico, non coglie lo scherzo a proposito di questo 2-0 alla Germania. Perché allora, visto tutto sto populismo mediatico, non parte una campagna stampa per rinunciare ai titoli vinti da Schumacher? Ma stiamo grosso modo giocando, no? Stiamo grosso modo giocando, è un gioco divertente perché si intrecciano, soprattutto ieri ad Hockenheim, queste varie componenti che in giorni come questi, in giorni molto difficili economicamente, permettono anche di sorridere, ma null'altro, eh. Se ve la prendete per questo, vabbè, allora io al gioco non ci sto. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, mi perdoni se la disturbo innanzitutto. Non mi disturba affatto, anzi è un piacere. Per il posto. Mi dispiace per Garanzini, ma lei lo sta sostituendo molto bene. Grazie. Una domanda stupida. Io ho visto il torneo team sabato sera, c'erano tanti giovani che giocavano, anzi devo dire che hanno giocato di più i giovani in un campo di patate del Milan nella seconda partita, che i grandi campioni. A sto punto, visto che il Montpellier vuole i soldi di Thiago Silva, ma perché non facciamo giocare un po' di giovani, che così almeno prima risparmiamo i soldi, secondo li vediamo correre. Sì, ci sta. Ascolta in radio. Ma c'è poco da ascoltare, perché ho poco da rispondere in realtà, Dario, perché ha ragione, è quello che penso anch'io, perché adesso tutti sanno che il Milan ha le casse piene, esce questo giocatore del Montpellier seminoto e vogliono 18 milioni di euro. Tanto vale fare con quelli che ci sono, a patto però, continuo a ripeterlo, di essere chiari e di non raccontare bugie alla gente, perché questo Milan, secondo me, così com'è, non è competitivo per alcun traguardo. Poi continuo a sentire questa vocina relativa a Kakà. Io sono convinto che Kakà arriverà al Milan come, insomma, contentino per la gente. Leggevo anche di rimborsi agli abbonamenti. L'avvocato Cantamessa che ha detto: è una questione di stile, giuridicamente non è consentito rimborso se non si è soddisfatti del prodotto acquistato. Bah. A proposito di Olimpiadi, cominciano naturalmente a grandinare un sacco di notizie. Ad esempio, indovinate chi è il portabandiera della delegazione della Gran Bretagna? 3, 2, 1, tempo scaduto. Il nostro prossimo ospite lo conosce probabilmente. È Chris Hoy, ciclista scozzese, vincitore di 3 medaglie d'oro ai Giochi di Pechino, nominato ufficialmente portabandiera del team olimpico britannico, quindi sarà lui il portabandiera. Sono giorni inglesi, sono stati giorni molto inglesi anche al Tour de France con la vittoria di Wiggins. Molto bello, ma chissà se è il nostro amico Ivan Basso, con cui abbiamo avuto 3 settimane di frequentazione quotidiana verso le 18 di sera, messaggi e telefonate, è venuto un po' di mal di pancia nel sentire questa celebrazione del bravissimo Wiggins. Ciao Ivan. Buon pomeriggio a tutti. Nessun mal di pancia assolutamente, Wiggins ha meritato questa vittoria, l'ha costruita con 3 settimane di grande lavoro con tutta la sua squadra, e quando vince un atleta come Wiggins bisogna, diciamo, applaudirlo e riconoscere la superiorità. Sì, riconosciamo anche che è stato un tour disegnato per lui, perché è un tour tutto inglese con troppa cronometro e poca possibilità di divertirsi in montagna, questo bisogna ammetterlo, Ivan. Ma sicuramente è un tour che aveva molta più cronometro rispetto alla quantità di salita o perlomeno di grandi montagne, e questo sicuramente ha favorito e ha esaltato le sue qualità, però bisogna pensare che un tour lo si vince nell'arco delle 3 settimane e questo, insomma, non si può dire che lui l'abbia vinto solo a cronometro. Io credo che è stato l'atleta che ha saputo interpretare meglio un percorso che sicuramente gli si addiceva molto. Ti ha sorpreso Fromm, che tutti dicono è il vero vincitore morale, tra virgolette, del Giro, perché stava benissimo, un corridore estremamente noto, ha fatto un Tour de France pazzesco. Ma guardate, noi atleti dobbiamo molte volte isolarci da tutti questi commenti, vincitore morale, non vincitore morale. Io credo che è stato molto simpatico leggere o ascoltare quello che è stato detto dopo l'ultimo arrivo in salita, dove sembrava che Wiggins fosse stato aspettato più volte da From, esattamente le stesse persone il giorno dopo celebravano Wiggins come l'atleta che ha dominato il tour, quindi io credo che bisogna essere molto realisti, no? Dire, nelle tre settimane Wiggins è stato l'atleta più forte su un percorso sicuramente che era congeniale alle sue caratteristiche. Certo. Basta, tutto qua. Capitano, voi avete incassato alla Liquigas il terzo posto di Nibali ed è splendido, e la consacrazione di Sagan. Tornate a casa, state tornando a casa contenti? Io credo che Nibali ha fatto un tour eccellente, un tour che più di così non poteva fare. Tutto il distacco che ha preso l'ha preso a cronometro, in salita è sempre rimasto con i migliori, è l'unico che ha anche cercato di far saltare la coppia Wiggins-Prom. Più di quello non poteva fare. Io credo che è stato un tour vincente per lui, un tour che lo proietta definitivamente in un palcoscenico internazionale che potrà andare sempre più in alto nei prossimi anni. Come proseguirà la tua stagione, Ivan? E poi voglio chiederti anche se tornerai lì su quelle strade al tour per vincere con obiettivi diversi. Ma la mia stagione proseguirà adesso con due settimane di relax con la mia famiglia e poi andrò al Giro del Colorado, dove senza particolari ambizioni, la mia stagione si è concentrata molto in questa fase centrale con il Giro e il Tour, quindi tante energie spese, questo significa che vengono a mancare poi nella parte finale della stagione, quindi di obiettivi così a breve distanza non ce ne sono, ma ci sono gli obiettivi per il 2013-2014, dove io riprenderò la mia quello che ho fatto negli ultimi 8 anni continuerò a fare anche nelle prossime stagioni, cioè quello di andare a cercare di conquistare i podi nelle grandi corse a tappe. Certo. Ivan, un'ultima cosa sulla corsa olimpica, roba per Cavendish secondo te? Ma io sinceramente non conosco il percorso perché non sono mai rientrato per svariati motivi nella rosa degli azzurrabili, quindi non ho seguito con grande attenzione le caratteristiche del percorso, quindi non saprei esprimere un giudizio su chi potrebbe essere il favorito assoluto, ma chiaramente da italiano spero che sia uno dei nostri a vincere la medaglia d'oro, ancora meglio se la vincerà uno della Liquigas Canyon, visto che abbiamo due atleti che fanno parte della spedizione azzurra. Sì, poi sti inglesi hanno vinto anche troppo, quindi se lasciano per strada qualcosa ce lo prendiamo noi. Ma io, vediamo, questo è. Io credo che quando vincono atleti come Wiggins e come Cavendish, l'errore più grande e non dare merito ai vincitori, hai ragione. Perché sono atleti eccellenti, sono atleti che hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, e quindi bisogna così riconoscere la loro superiorità e pensare di batterli alla prossima. Grazie Ivan, buon ritorno. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie ad Ivan Basso, nostro compagno di viaggio abituale, Marco da Roma. Salve, buon pomeriggio. Io vorrei parlare di un male italiano, almeno del calcio scommesse. Guarda, io mi ritrovo un po' impelagato perché sono tifoso del Lecce. E come ben sa, il Lecce rischia anche la responsabilità soggettiva, non più quella oggettiva, per via del nostro grandissimo ex presidente. Ma io quello che vorrei capire è quando usciranno queste sentenze definitive per capire pure in che serie potrei andare a giocare, visto che il calciomercato è tutto bloccato in base alla serie di se sarà Lega Pro, Serie B. Sì. Mi scuso per il calcio per le richieste di Serie B, tra virgolette, una squadra di poco conto. No, di poco conto per nulla. Io non so esattamente quando usciranno le sentenze, ma credo che si faccia presto, come sempre. Si tratta di definire il calendario, si tratta di, appunto, di definire le squadre, calcio mercato. Sappiamo bene come il processo sportivo sia qualcosa di diverso rispetto a quello, ma qui stiamo ripetendo le stesse cose ormai da anni. Qualcosa di diverso rispetto al processo ordinario, dunque le sentenze sono attese. Dire il giorno in cui verranno rese note e definitive non lo so ancora. Massimiliano da Pesaro. Massimiliano. Pronto? Hola. Eccomi. Buongiorno. Io sono da Pesaro. Sì. Io volevo parlare della triste situazione del basket in Italia. Sì. Noi per fortuna fino a un certo punto a Pesaro quest'anno la Scavolini riuscirà tramite pochissimi sponsor a rimanere in Serie A. Mentre invece ho visto che delle piazze tipo Treviso sono saltate, Roma non si sa, Teramo è messo malissimo. Beh, Teramo più che messo malissimo è fuori. Gestione. Sì. Si sente male? No, si sente male Teramo, perché più che messa male Teramo è fuori, quindi conosciamo la vicenda di Treviso, è nota quella di Roma, sappiamo bene come a Pesaro appunto sono momenti di ridimensionamento, ma io credo comunque che ci vorrebbe sempre qualcuno che prendesse il coraggio a due mani e avesse la forza, perché non sono solo queste nel basket italiano, avesse la forza di, con tutto il dispiacere del mondo, tagliare rami secchi che da anni sono lì e sono lasciati attaccati all'albero a vegetare. Da lì si potrebbe ripartire, questo coraggio e questa lungimiranza non ci sono, e dunque andiamo avanti così con tante realtà, aggiungiamo Cremona, aggiungiamo Caserta, aggiungiamo Avellino, attaccate alla bombola respiratoria artificiale. Grazie. Dunque adesso vi vendiamo, anzi no, vi regaliamo qualche notizia freschissima come questa, che non farà piacere ai tifosi della Juventus. Cáceres fermo un mese, problemi al collaterale del ginocchio. Oppure varie notizie olimpiche, come l'arrivo a Londra oggi della delegazione siriana. Damasco, come sapete, è al centro delle polemiche per la guerra civile in corso nel paese. I media hanno i riflettori puntati sui siriani, non tanto per le loro prestazioni atletiche, ma per quelle politiche. Poi altra notizia olimpica: primo controllo antidoping a sorpresa per la squadra italiana al villaggio olimpico di Londra. È toccato agli azzurri del tiro a segno. Nicolò Campriani e Marco De Nicolò ricevono la visita alle 7:30 di questa mattina dei medici designati. Invece, chi ha ricevuto una visita ed è stata cacciata è un'atleta marocchina, tra l'altro tra le favorite dei 1500, cioè Mariem Selsouli, che è stata trovata positiva a un controllo antidoping ed estromessa dai giochi. La 28enne era stata testata il 6 luglio scorso al meeting di Parigi, dove aveva stabilito la miglior performance mondiale stagionale sui 1500, dunque fuori per doping la Selsouli. Ce n'è un'altra, c'è un'altra notizia che con le Olimpiadi non c'entra molto, ma c'entra con lo sport italiano. Giovanni Malagò si candida al dopo Petrucci a presidenza del CONI. Questo è quanto. Mauro, provincia di Vicenza, buongiorno. Ah no, buongiorno. Aspetti un attimo, perché devo rispondere anche a un certo Renato, cioè a un certo Renato che non si fida tanto di noi e che via SMS... Prima abbiamo parlato di moto mondiale, diceva, è la Superbike che ieri Melandri ha fatto quel che ha fatto, ma ce l'abbiamo anche la voce di Melandri, caro Renato, eccola qui. Vicino comunque, sì, ancora Tommy vicino, vicinissimo, vicinissimo, pericolosissimo, attenzione, le ultime curve, queste sono le ultime curve prima del traguardo. Non puoi sbagliare qui, attenzione. Hai intenzione di provare nell'incrocio, sì, Tom? Sì, sì, no, non ce la fa, non ce la fa, sempre più vicino, ma ancora indomato, Tom Sykes, l'ultimo colpo di gas, una manciata ed è Marco Melandri, vincitore, trionfatore della Repubblica Ceca, secondo Tom Sykes, terzo Carlos Ceca, la quarta posizione per Max Biagi, il quinto posto per l'Avi. Non c'è dubbio che dal punto si sente, no? Dal punto di vista della passione, gare di Superbike, Dijk, non solo per la vittoria di Melandri, per un viaggio ancora protagonista, sono la cosa più appassionante per chi segue le moto in questo momento di acqua bassa, bassissima in casa Ducati, di un Valentino Rossi tristemente avviato, molto molto tristemente avviato verso il Sunset Boulevard, già avanzato su questa strada del declino. Allora, dalla Spagna, sito di Marca, alle 13.45 è finita una riunione tra Mourinho e Kakà, nessuna dichiarazione, Orizzonte Milan, cosa mi scrive Franco Piantaneda? Niente, Orizzonte Milan, punto di domanda, chi lo sa, la voce di Kakà al Milan, buttata lì un po' per caso, prende sempre più consistenza. C'è un altro ascoltatore che via SMS domanda ogni giorno dove andrà Marco Bellinelli, e qui stiamo parlando di basket NBA, molto vicino ai Bulls. Adesso parliamo con gli ascoltatori. Mauro, l'avevo già salutata, dica. Buongiorno, buongiorno. Senta, io volevo approfittare di questo spazio per capire una cosa. Io sono un allenatore di pallavolo professionista e volevo capire se la crisi che ha colpito quest'anno la pallavolo ha colpito anche altri sport tipo il basket o addirittura il calcio. Mi spiego, quest'anno io ero a Porto Potenza, allenavo la Serie B1 femminile, il maschile siamo andati in Serie A. La società ha deciso di farla e per farla ha dovuto, tra fine divisione e tutto, fare una squadra con un budget inferiore a quello con cui abbiamo vinto la B1, tagliando tutti i professionisti, gente da fuori, io ero l'allenatore fuori con l'appartamento e tutto, e quindi hanno scelto l'allenatore del posto, i giocatori del posto. Il campionato di A1 ha visto due squadre in meno, il campionato di A2 vede quattro squadre in meno, quindi ci sono già almeno 70 giocatori in giro. Se lei vuol chiedere che senso ha tutto questo, la risposta io non ce l'ho. No, volevo capire se anche negli altri sport, cioè se è una cosa realmente di crisi di tutti, oppure c'è un momento che molti hanno approfittato per tagliare e ridimensionare. Guardi Mauro, da uomo di sport la risposta la conosce già, basta aprire un qualunque giornale, ma ne parlavamo anche prima, nel basket c'è chi scompare ed è una realtà storica come quella di Treviso, c'è chi scompare ed è una realtà importante come quella di Teramo, c'è chi ha grandi difficoltà nell'approcciare la stagione, si presenta lì con le bisacce vuote e dice noi ci siamo, però giocando con chi? Giocando con cosa? Giocando con i debiti, come da molti anni succede. C'è Pesaro, ne parlavamo prima, che ha avuto una grande stagione e che ha ridimensionato in maniera drastica in tutti gli sport, calcio compreso, questa crisi è violentissima. Poi è chiaro che se si va sotto il tetto dorato della Serie A, ma anche lì insomma sono macro argomenti, no? Il Milan che vende Kakà, che vende Thiago Silva, l'Inter che non riesce a comprare un giocatore di livello, sono tutti segnali piuttosto evidenti, quindi la risposta mi sembra abbastanza banale, la conosciamo sia io che lei, anzi lei meglio di me visto che è parte in causa, è parte del gioco. In bocca al lupo comunque Mauro. Matteo da Ferrara. Buongiorno a tutti, volevo parlare un attimo di Olimpiadi, due brevi considerazioni. La prima, visto che Basso era per telefono prima con noi, sì. Perché abbiamo un solo rappresentante nella pista, nel ciclismo su pista, dove bene o male avevamo una discreta tradizione. E secondo, sono un abbonato Sky. Forse perché la scuola si è esaurita? Ah, non lo so. Però un solo rappresentante mi sembra veramente una partecipazione. Sì, scarsa, certo, ha ragione. Scarsa. E altra cosa che non c'entra niente, però io sono abbonato Sky, visto che ogni tanto avete spesso, anzi avete degli ospiti di Sky Sport, mi aspettavo che arrivasse a casa un giornalino con un vademecum degli orari, delle varie discipline, eccetera. E invece credo che dovrò andarli a cercare sui giornali. Ecco, solo questo. Ma sì, valgono anche i bottoni del telecomando, anche se è un sistema un po' più complesso da usare, lì riesce a trovare, io credo che riuscirà a trovare veramente tutto. Comunque lasciamo in sospeso questo interrogativo, se sarà ancora possibile inviare per posta un programma di questa mostruosità di 2000 ore di diretta olimpica, non so se arriverà per tempo in realtà, però sa, si mette lì col telecomando e si ferma dove ne ha voglia, perché farà vedere veramente tutto. Viviano, provincia di Udine. Ah, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo intervenire, l'ho sentita prima sul famoso 2-0. Sì. Beh, quello di un mese fa ormai lo mettiamo nella storia, ma quello di ieri io lo inquadrerei anche in una di quelle cose che dobbiamo essere orgogliosi, nel senso che la Ferrari è una macchina italiana, tecnologia italiana, contro dei mostri inglesi e tedeschi assieme, tedeschi e francesi, motori ovviamente, e quindi va oltre il folklore, ma è una dimostrazione che nel nostro paese le cose le sappiamo fare bene come i tedeschi. Sì. La seconda cosa, sono della provincia di Udine, l'Udinese continua a vendere, gli udinesi non restituiscono gli abbonamenti e confidiamo di fare una bella figura in Coppa dei Campioni. E ma perché siete abituati bene, perché sapete che potete contare su una dirigenza che ha questa filosofia di vita assolutamente condivisibile, e l'ho sempre detto, del valorizzare, del pescare bene in giro per il mondo, non a caso, ma grazie ad un lavoro spaventoso che viene fatto a Udine. Non c'è paura nel dare campo, nel valorizzare i giocatori che vengono presi, poi quelli buoni al giusto prezzo vanno via, ne arrivano degli altri e a Udine ci si continua a divertire. Dunque non vedo perché dovrebbe restituire i soldi dell'abbonamento, sa che il prodotto che ha acquistato sarà certamente valido. Il discorso riguarda invece qualcun altro che si fidava un po' di più della propria dirigenza. Nicky da Treviso per il traffico. Pronto? Pronto, dica. Buongiorno, buongiorno. Volevo contare la vittoria dei Wiggins al Tour de France. Sì. Sono un appassionato di ciclismo, ho gareggiato contro e con Ivan Basso. Sì. Nelle categorie giovanili, e sono un grande appassionato di metodi di preparazione di questo sport, no? E ho visto ormai negli ultimi 2-3 anni un grande salto di qualità delle cosiddette squadre anglosassoni, a discapito, qui parlo di Garmin, di Sky, sì, certo, di Lorica Green Age e così via. Penso che anche le squadre italiane, per tornare competitive, squadre italiane, poi parlo anche degli altri paesi che hanno fatto la storia di questo ciclismo, sì, parlo di Spagna, parlo di Olanda, di Belgio, certo. Penso che siamo, per questi quattro paesi che ho elencato, 2-3 marce indietro rispetto alle squadre che ho menzionato. Cioè, ormai i metodi di preparazione di Gran Bretagna e Australia, io sono andato a studiarmeli, sono di gran lunga superiori e si vedono i risultati. Eh beh, si vedono, cioè, sì. Stesso che si vedano i corridori del Team Sky dopo le tappe di alta montagna che si mettono sui rulli dopo aver fatto 5-6 ore di bici, mentre i nostri sono sul pullman a fare la doccia, fa capire la differenza di mentalità. Ho grande stima dei preparatori della Liquigas, ma sono una goccia del mare. Conosco il preparatore della Liquigas, sì, personalmente, che è Paolo Slongo. No, ma lei ha ragione nel sottolineare come dietro questo dominio assoluto, in paesi che non sono tradizionalmente versati per il ciclismo, ci deve essere un lavoro molto importante e molto capillare, quindi è una considerazione molto interessante, perché veniamo da un australiano l'anno scorso e arriviamo al dominio britannico di quest'anno, cioè Cavendish, che è il più forte velocista del mondo. Insomma, non sarà soltanto una generazione di fenomeni nati in Inghilterra, è una generazione di fenomeni, sì, ma una generazione di fenomeni allenata molto bene, su questo non c'è dubbio, ed è un argomento interessante. Oh, e siamo al mercato, perché io da Antonio Barillà, amico e collega del Corriere dello Sport, che ha seguito questi giorni da vicino, molto da vicino questi giorni della Juventus, voglio sapere che cosa succede questa settimana sul mercato. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, questa settimana forse di definitivo non succede nulla, però sarà decisiva per inquadrare meglio la scelta della Juve con riferimento al top player offensivo, una scelta che la Juventus sta portando avanti e trascinando non per propria confusione o indecisione, ma perché il livello dei calciatori che sono stati individuati e isolati come obiettivi impedisce di tracciare delle gerarchie senza tener conto di variabili infinite legate all'incedibilità, alle valutazioni alte, agli ingaggi proibiti, e quindi la Juve dovrà valutare attentamente come e in che misura esistano gli spazi per muoversi. In cima alla gerarchia si sono comunque stagliati Robin Van Persie, che ha ufficializzato l'addio all'Arsenal. La concorrenza è fortissima, l'ingaggio estraneo ai parametri bianconeri, ma le speranze esistono. E poi naturalmente Stefan Jovetic, un calciatore sul quale con forza la Juventus spera di poter inserirsi, pur rispettando per il momento quella che è la volontà della Fiorentina di non cederlo. Se il calciatore, come qualcuno sostiene, dovesse uscire allo scoperto chiedendo la cessione, la Juve è pronta a fiondarsi per portarlo a Torino e ricostituire la coppia del Montenegro con Vucic. Ma sì, ma mi sembra anche la pista più plausibile, perché Van Persie guadagna veramente troppi soldi, e poi sarebbe un problema anche di equilibri all'interno del club, no? Beh, è plausibile dal punto di vista dell'ingaggio, perché con Jovetic si parte da una base di 2 milioni che quindi anche nella previsione di un robusto ritocco rientrerebbe ampiamente nei parametri, mentre sicuramente Van Persie va oltre in una squadra dove, ricordiamo, il solo Buffon supera i 5 milioni e in relazione a un contratto sottoscritto dalla vecchia società. È anche vero però che la Juventus ha proposto un pacchetto che comprende una base fissa, dei bonus e soprattutto una possibilità di ruolo di uomo immagine dal nuovo ciclo bianconero, che potrebbe in qualche modo sedurre il calciatore olandese se dovesse accettare di barattare uno sconto sull'ingaggio, con la certezza di non essere uno dei tanti campioni che può trovare al City, certo, oppure al Manchester United. Ovviamente è difficile, ma la speranza c'è. Con Jovetic, certo, invece è più semplice questo tipo d'approccio, così come il vantaggio dell'età e della conoscenza del calcio italiano. Però in compenso c'è le barricate della Fiorentina che finora ha esplicitamente dichiarato di non voler cedere il giocatore, anzi di essere disposta a trattare la cessione in nome di un patto d'onore sottoscritto tempo fa, ma solo per la cifra di 30 milioni di euro e senza contropartite tecniche. Quindi è chiaro che a un tipo d'offerta di questo tipo la Juve fatica ad accostarsi senza mettere in conto un sacrificio enorme. Certo. Diciamo che un filo di speranza, se mi permette ancora, nasce dalla possibilità di reperire il tesoretto necessario attraverso la cessione di una serie di giocatori in esubero, alcuni dei quali neanche saliti nel ritiro di Châtillon, che spaziano da Krasic a Felipe Melo a Martinez e a Quinta. Se si riescono a cedere almeno alcuni di questi, si può raggiungere una parte del cash necessario per bussare delle vanne. Se qualcuno li vuole, sono lì da prendere, caro Antonio. Non credo ci sia la fila però per questi giocatori. Ma per Melo la trattativa col Galatasaray procede abbastanza spedita, lui ha già l'accordo, io penso che il finale sia quello. Il problema più grosso è Krasic è un problema grosso, perché la Juve, che ha investito solo pochi anni fa e che addirittura aveva fatto il testimonial del nuovo stadio, non vuole svendere il calciatore. Le migliori offerte giungono dalla Russia, dove lui però non vuole tornare, e l'anno vissuto in naftalina sicuramente non aiuta, e quindi è complicato trovare un incastro che aiuti veramente tutti. Tanto leggo anche dal tuo giornale che è bastato un trofeo team del 22 di luglio per cominciare a far storgere la bocca a qualche tifoso juventino a proposito di Lucio. Io l'ho sempre considerato un giocatore estremamente sopravvalutato, che ha avuto la fortuna di giocare insieme a grandi compagni di reparto, ultimo Samuel. Non so se è quello che può far fare il salto di qualità alla Juventus. Ma io, Dio conservi a lungo Barzagli, almeno per Conte. Ma io penso, guarda, da questo punto di vista, intanto io mi schiero con chi non ritiene che, insomma, un errore commesso in un amichevole di luglio possa definire il caso, per carità, ma quello penso evidente. No, in assoluto, però credo che Lucio non sia stato preso per scardinare una difesa che è con le audatissime ed è intoccabile, no? Ma più che altro per garantire un ricambio in più in vista Champions, ma soprattutto trasmettere anche nello spogliatoio quell'esperienza internazionale che non hanno così importante il principale difetto della Juventus. Questo sì. Se tu analizzi attentamente dei giocatori della Juve, pochissimi hanno attraversato la Champions, pochissimi hanno avuto quel tipo di esperienza, quindi anche nei ruoli non di prima linea, incamerare dei calciatori di questo spessore può essere utilissimo. Che conoscono la strada, sì. Esatto, esatto. Per dire, anche a Samoa e Isla, che sono due giocatori di assoluto spessore nel rinforzo Juve, però a livello di Champions non hanno maturato quelle, uno come Lucio può essere utile insieme a Pirlo, insieme a Buffon, insieme ai pochi che l'hanno attraversata anche a grandi livelli. Antonio, ti chiedo ancora tre cose: che sensazione hai sul Milan, sull'Inter e su destro? Allora, per quanto riguarda il Milan, io credo che chi si ferma alle apparenze di una squadra indebolita sbaglia, nel senso che partenze come quelle di Thiago Silva e di Ibrahimovic lasceranno sicuramente un segno negativo perché sono difficilissime da sostituire, però sono convinto che da qui alla fine del mercato ci sarà la solita zampata di Galliani che assicurerà dei giocatori comunque di alto spessore e renderà competitivo. Kakà è difficile, Kakà è molto difficile, però una figura tipo Zeko in attacco me l'aspetto, per fare un nome che ritengo credibile. L'Inter è una squadra in costruzione da tanti punti di vista, ma sono convinto che alla fine anche loro si miglioreranno. Se dovessero prendere Lucas, sicuramente parliamo di uno dei migliori talenti espressi in questo momento dal calcio sudamericano. E per quanto riguarda invece la situazione destro, penso che è inutile sbizzarrirsi in pronostici, sono ore decisive, la Roma è abbastanza tranquilla, però è chiaro che finché non ci sarà l'annuncio, un filo di speranza può esserci per chiunque voglia prendere uno dei migliori talenti espressi dal calcio italiano e che è moderno nel complesso perché segna ma lavora con la squadra, ripiega, si sacrifica e lo fa in maniera naturale senza seguire dettami tattici. Certo. Considerando l'età giovane, quindi margini di miglioramento, credo che chi si assicura questo calciatore farà sicuramente un grosso investimento. La Roma in particolare, avendo perso Borini, metterebbe dentro un altro giovane destinato all'azzurro e quindi aprirebbe un ciclo fortissimo accanto a Totti che può garantirgli facilità nella crescita complessiva. Certo, si parla di grano, io mi domando perché Borini è stato lasciato andare via, ma comunque queste sono altre storie. Intanto ti ringrazio Antonio, alla prossima. Grazie. Buon a voi, lavoro. Arrivederci. Buon lavoro ad Antonio Barilla, e in effetti l'interrogativo è lì, cioè, faccio andare via Borini e poi copro d'oro destro, gran bel giocatore, gran bel prospetto, però il conto non torna, come sottolineava d'altra parte l'altro giorno un ascoltatore. Giuseppe da Palermo, poi andiamo a casa. Buongiorno. Io in questo purpurri di questioni che le sottopongono volevo la sua opinione in ordine al mercato del Palermo e agli acquisti che sono stati fatti. Hanno preso un giovane della Serie B argentina, lo stanno presentando come un grande campione dicendo che lo seguiva mezzo Europa. Sì. Volevo sapere la sua opinione anche perché hanno, dicono di aver preso anche un centrocampista uruguaiano, un nazionale. Grazie. No, ma grazie di che? Io non so niente, cioè non sono giocatori che non conosco, quindi la mia opinione gliela darò tra un po' quando potrò vederli giocare magari un certo numero di partite, non possibilmente non trofei di birre varie o di telefonia. Mi sembra comunque un mercato certo non a rialzo. Si tratta ancora di capire se Balzaretti resterà o non resterà. A occhio e croce mi sembra un Palermo un po' più debole rispetto a quello dell'anno scorso. Certo è che puntare sui giovani e magari riuscire ad avere la forza e l'abilità di andare a prendere quelli buoni è sempre la manovra giusta. Su questi giocatori io non li conosco, quindi una mia opinione non gliela posso dare, mi spiace. Mi attaccano su Twitter, perché Twitter e Facebook sempre collegati con noi, mi raccomando, mi attaccano su Twitter perché parlo male di Lucio, vabbè, mi attacchino pure. Parlo male di Lucio, ricordo ancora come parlava della Juve, di Conte, dello stadio, eccetera, eccetera. Lucio farà una grande stagione, ma glielo auguro. Lo auguro a Lucio, a Conte e a tutti i tifosi juventini. Io continuo a pensare che Lucio sia un giocatore molto costoso, piuttosto in là con gli anni, e sopravvalutato. Ha giocato sempre in grandi squadre, ha avuto, quello sì, la fortuna di giocare, di trovare sempre grandi compagni di reparto che ne hanno migliorato le prestazioni, perché Lucio l'anno scorso con l'Inter abbiamo visto, quando non c'era Samuel, e Samuel non c'è stato per un sacco di tempo, grosso modo abbiamo visto quanto valeva, che non era esattamente la stessa cosa dell'anno precedente. Vabbè, se volete torniamo ad attaccarci domani, nessun problema, tanto dalle 2 siamo qui. Grazie a Franco Piantanini in redazione, a Matteo Comas in regia, ciao a tutti.